Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, nonché naturalmente potete trovarci sul web scaricando l'apposita app gratuitamente, l'apposita app che trovate sul sito radiocittafujiko.it, nonché da qualche mese oramai siamo anche in DAB. Per adesso solo Bologna e provincia limitrofe, poi naturalmente, almeno si spera, ci espanderemo. Città Fujiko Live Club è la trasmissione che ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 si preoccupa di farvi ascoltare registrazioni live ufficiali di tutte le epoche e di quasi tutti i generi. E come sempre Città Fujiko Live Club inizia con una novità che oggi è molto molto interessante, uno dei migliori album usciti lo scorso anno e che vede in scena una band che si chiama semplicemente The National. National è un quintetto che al proprio interno vede due coppie di fratelli, ci sono i Davenport e i Desner che addirittura in questo caso sono gemelli, quindi c'è un po' di caos all'interno. In più hanno Matt Berninger che è un ottimo cantante. Loro per il loro show si avvalgono anche di una sezione di fiati che oramai fa parte integrante della band, anche se non ufficialmente diciamo. Hanno fatto 7 album live, che sono tanti perché appunto la loro carriera è iniziata nel 1999, ma ben vengano. Alcuni però sono solo in download, uno addirittura solo in cassetta, non so se i più giovani sanno di cosa si tratta, ma spero proprio di sì, e alcuni fisicamente, come questo che vi propongo oggi, che è l'ultimo che ce ne va ad ascoltare, dal nome molto molto esplicativo, si chiama Rome, vale a dire Roma. Come dice appunto il titolo di questo doppio album, doppio dischetto, l'album è stato registrato nella cosiddetta Città Eterna, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, un posto veramente fantastico per la musica sia come location che come qualità del suono. Il tutto è stato registrato non tanto tempo fa, il 3 giugno dello scorso anno, quindi è diciamo fresco rispetto a tante altre cose che vi propongo in questa trasmissione. Il brano che ho scelto per aprire questa rassegna dedicata alle registrazioni effettuate in quel di Roma, a seguire naturalmente, prima ci sono i National con un brano che si chiama Smoke Detector. All you need to do is protect it, smoke detector. Smoke detector, smoke detector. Blink and bless it, let it rest. Don't let my memory dissolve. Make a list of your loved ones and order a hut. Laugh at the blackbirds and knack at the mat. Give all the favorites in your phone. Imagine yourself completely alone. Sit in the backyard at my pharmacy slippers. I wish I'm not on the roof anymore. In a year or so, I hope nobody. If ever does my time on the floor, I need to recharge. Light from the stars won't really reach anything, will it? Binary capsules of all human culture, history and science and headless sculptures, stories of monkeys and digital religion, like the note on the ankle of the last living creature. Smoke detector, smoke detector, all you need to do is protect it. Smoke detector, I don't know what your science means. It's your birthday, huh? Happy birthday, happy birthday. All we need to do is say happy birthday, smoke detector. I'll get better, I'll fluff the feathers, I'll punch in the numbers, then I'll enter the letters. Why don't you let me lay it? Listen to the distant sirens. I wonder if they have a dog in the driver's seat with a red helmet and his head out the window. It's getting closer no matter where we go. Brush your teeth and write your name on the bottom of a brick under a window pane. Simply a slush in the ash and the dust, or whatever stands up, whatever it is. If it's a laugh or a rush or remember the feeling, you don't know what it is, but you don't want to leave it. Put it in a plastic bag, put it in a pocket, hang it on a hanger, put it in the closet. You know where it is whenever you need it. I'd make a good argument, admit it. You don't know how much I love you. You don't know how much I love you, do you? Just try to remember the best of us. Just try to remember the best of us. Take a list of your loved ones and order a hike. Laugh at the blackbirds in the black of the night. Give all the favorites in your phone. Imagine yourself completely alone. Sit in the backyard in my pharmacy slippers. At least I'm not on the roof anymore. In a year or so, I hope nobody remembers this runner ever since my time on the floor. I need to recharge. The light from the stars won't really reach anything. Where? Binary capsules of all human culture, history and science, and the headless sculptures, stories, living like a nut on the ankle of the last living pigeon. You don't know how much I'm lonely, do you? You don't know how much I love you, do you? I'll get better. Why don't you let me lay it and listen to the distant sirens? I wonder if they have a dog in the driver's seat with a red helmet and his hat out the window. Getting closer to my railway gun. Brush your teeth and bite your lips on the bottom of a brick under a window. Dipped in a slush, ash in the dust, so it ever stands up for whatever reason. It's a laugh or a rush to remember to. You don't know what it is, but you don't want to leave. Put it in a plastic vest, put it in a pop, hang it on a hang, put it in a closet. You'll know where it is whenever you need it. I make a good argument, and today. Oh, I want you, not you, to you. You don't know how much I love you. Si chiama Smoke Detector, un brano che è contenuto in questo doppio CD che vi propongo oggi come novità. Si chiama Rome, appunto registrato in quel di Roma da parte dei National, o per meglio dire The National, come loro vogliono che si dica. Il tutto registrato all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il 3 giugno scorso, come dicevo in precedenza, quindi musica live fresca fresca. E come vi ho già anticipato, ci ascolteremo in questa prima parte della trasmissione i brani che sono stati registrati a Roma, e ad iniziare da una registrazione effettuata nel 1997 da parte di una band all'epoca, agli inizi diciamo così, ma che poi sarebbe diventata ed è tuttora una grande band. Si chiamano Porcupine Tree, è stata formata da Steven Wilson, anzi è chitarrista, tastierista, cantante, iniziò proprio come suo progetto solista, ma poi è diventata una band vera e propria che dal 1987 ha proseguito fino al 2010, poi nel 2021 sono tornati e Steven Wilson fra l'altro si è circondato da personaggi non indifferenti tipo Richard Barbieri, tasterista degli ex dei Japan, e Gavin Harrison, batterista che molti di voi ricorderanno nell'ultima formazione dei King Crimson. Loro hanno fatto tanti tanti album live, quasi tutti in download only, cioè solamente scaricabili sul loro sito o dalla casa discografica che si chiama Burning Sheet. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Coma Divine ed è stato registrato in un piccolo locale di Roma. A Roma, a parte le grandi Palazzo dello Sport oppure l'Auditorium da non molto tempo relativamente parlando, e lo stadio, ci sono miriade di piccoli locali che nascono e muoiono, e purtroppo spesso muoiono, come è successo anche a un locale storico che era il Big Mama a Trastevere, ma questo è un altro discorso. Mi interessa questo che si chiamava Frontiera ed era un piccolo locale che dal 25 al 27 marzo del 1997 ospitò il Porcupine Tree, che registrarono appunto quello che è questo album che si chiama Coma Divine. Il brano che ho scelto per voi si chiama The Sleep of No Dreaming, loro sono Porcupine Tree. Sleeping on fear. that my TV leaks onto my Siamo tornati all'Auditorium Parco della Musica, Ennio Morricone naturalmente, insieme ai King Crimson, che hanno un nesso anche con i Porcupine Tree, perché Steven Wilson, appunto il leader di Porcupine Tree, è conosciuto anche come gran remissatore, cioè remixatore sarebbe da dire, cioè ha remixato praticamente tutti gli album della discografia dei King Crimson quando sono stati ripubblicati nel corso degli ultimi anni, e quindi c'è un nesso abbastanza pesante, diciamo abbastanza collegato. King Crimson, che hanno pubblicato qualche anno fa un quintuplo box set che si chiama Audio Diary 2014-2018, cioè dal 2014 al 2018, sono appunto 5 CD, uno per ogni anno, dove sono racchiusi brani tratti da quelle tournée, quelle dal 2014 appunto al 2018. Fra parentesi, nello stesso periodo i King Crimson davano la possibilità di scaricare gratuitamente altri brani sempre dai concerti di quelle tournée. Il brano che ci siamo ascoltati, naturalmente, come dicevo, registrato a Roma il 23 luglio 2018, per la cronaca il giorno prima che li vedessi io il 24 giugno sempre lì a Roma, si chiama Radical Action, e appunto questo cofanetto secondo me è molto molto consigliabile, perché comprende veramente delle gran belle cose, con registrazioni effettuate qua e là per il mondo, oltre a questa registrazione italiana, per meglio dire di Roma, ce n'è un'altra italiana che è stata registrata a Pompei qualche giorno prima, il 19 luglio. Consigliatissimi, loro sono King Crimson, Radical Action. Thank you. Super chitarrista questo Scott Henderson, lui viene da West Palm Beach, Florida naturalmente, e iniziò la sua carriera tanti anni fa, nel 1985, insieme a una band che si chiamava Tribal Tech, e però allo scioglimento della band nel 1994 iniziò una carriera solista che l'ha visto saltabeccare, come si suol dire, fra jazz, blues, rock, forse anche un po' troppo saltabeccare, ma comunque rimane il fatto che è un eccellente chitarrista, che ha suonato fra gli altri anche con Chick Corea e Josevino, il che non è assolutamente poco. Questo doppio dischetto, che si chiama Live, è stato registrato quasi interamente in California, eccetto questo brano che ci siamo ascoltati, che fra parentesi è un brano di Wayne Shorter, anche questo scusate se è poco, che ha un titolo molto particolare, si chiama Fee Fi Fo Fum, non so assolutamente perché, ma si chiama proprio così, ed è stato registrato in un piccolo locale di Roma che a me è sconosciuto, non so se esiste tuttora, e si chiama La Palma Club. La data è sconosciuta e il brano invece che è molto bello, appunto, è un brano di Wayne Shorter. She caught a man running around like a mutt. Said she needed food on the shoe. Altro californiano che ci ascolteremo qualche cosa dal California in questa trasmissione. Steve Wynn è stato diverse volte in Italia sia con i Dream Syndicate, la band di cui è leader, che in versione solista acustica, che insieme ai Miracle Tree, che è la sua band di accompagnamento attuale. E hanno fatto 3 album dal vivo. Questo, fra parentesi, è una cosa un po' particolare, perché era un allegato a una rivista che si chiama Mucchio Extra, si chiamava forse Mucchio Extra, nel senso che fisicamente non esiste più, deve essere, credo che sia solamente in digitale. È il numero 5 della primavera del 2002. Allegato per qualche numero in questa rivista ci sono stati degli album live. Questo è stato registrato al Big Mama, che citavo in precedenza, il 3 novembre del 2001. Il pezzo che ho scelto per voi, da Steve Wynn e The Miracle 3, si chiama Burn, ed è un pezzo originariamente dei Dream Syndicate. Did I feel last night? Turn himself in this morning. No, I don't think you knew him, but that's not the point. Well, the cop says why he done it. Is they passing up the cops? He looked at what he done and he said, I just don't know. No, I just don't know. But she can't get in your heart, in your soul. Dig around to your lose control. And there's just a few things that can't be told. Don't you feel it burn? Don't you feel it burn? Don't you feel it burn? Well, there was this friend that you and I had. There were a few things that I believed in. And then one by one, he found some flaws and not so sure. No, he's not that sure. But you can feel your heart, feel your soul. Go around to your lose control. And there's just a few things that can't be told. Don't you feel it burn? Don't you feel it? Uno dei luoghi più orrendi che io abbia frequentato nella mia lunghissima carriera di fruitore di concerti, le capannelle di Roma, veramente è stato una cosa atroce, oserei dire, una spianata assolutamente ignobile, assolutamente priva di ogni comfort, di ogni di ogni. C'era solamente questa enorme spianata e il palco dove ha suonato Bruce Springsteen l'11 luglio del 2013 per la serie Rock in Roma, che è quello che ci siamo ascoltati. Il brano naturalmente si chiama Death to My Own Town. Andiamo a concludere molto velocemente con gli Eurythmics, anche se ci sarebbero ancora tante cose che ho lasciato indietro, non ve lo dico perché sennò mi picchiate, perché sono veramente molto interessanti. Comunque gli Eurythmics, Annie Lennox e Dave Stewart, un duo che ha avuto tantissimo successo e che ha pubblicato un doppio CD live 1983-89, che però è uscito anche in una versione limitata in tre CD, e il terzo era un acustico, una serie di brani acustici registrati a Roma il 27 ottobre 1989. Un singolo invece, che è quello che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama The King and Queen of America, è uscito in uno splendido cofanetto in legno, veramente molto molto bello. Comprende due canzoni dello stesso show, però elettriche, che non sono contenute nell'album, quindi andiamo a completare praticamente tutto il concerto. E il brano che ho scelto per voi si chiama There Must Be an Angel. Loro sono gli Eurythmics a concludere questa piccola rassegna di brani registrati in quel di Roma. Must be strange deception by Da Fujiko Live Club, seconda parte. Oggi siamo il 22 gennaio 2025 e la seconda parte si è aperta come sempre con la novità che vi propongo quest'oggi, l'ultima uscita discografica dei National. È un doppio album live che si chiama Rome, registrato appunto in quel di Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il 3 giugno dello scorso anno. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Lit Up ed è uno dei brani che fa parte di questo ottimo doppio dischetto che consiglio caldamente, che fra l'altro è sparito, eccolo qua. E come sempre però nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, che si propone di farvi ascoltare i brani nel corso della giornata in cui sono stati registrati nel trascorrere degli anni. Oggi iniziamo con un grande, un personaggio che ha una discografia live ormai sterminata e non è finita qua. Si chiama Neil Young, molti di voi lo conosceranno almeno per sentito dire, spero, no? Sto scherzando. Neil Young è assolutamente uno dei pilastri della musica rock degli ultimi 100 anni. La sua serie Archives Performances al numero 3.5 racchiude una registrazione effettuata in un teatro che si chiama Shakespeare, appunto, Theater, che sta a Stratford nel Connecticut. Si chiama appunto Shakespeare perché l'album si chiama Young Shakespeare ed è un gioco di parole fra appunto il nome di Neil Young e il nome del teatro e del grande vate britannico. Il tutto registrato il 22 gennaio del 1971. il brano che vi faccio ascoltare in realtà sono due, l'unione di due pezzi che all'epoca erano ancora inediti, ma che poi inseriti l'anno dopo in quello splendido album che si chiama Harvest ebbero un successo strepitoso. Il primo si chiama A Man Needs a Maid e il secondo invece si chiama Heart of Gold, Mr. Neil Young, dal 1971. I crossed the ocean for a heart. It's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. In questa Archive Performance Series Neil Young alterna album con le varie band che l'hanno accompagnato, album elettrici ad album acustici come questo che ci siamo ascoltati. Si chiama Young Shakespeare, era registrato a Stratford in Connecticut il 22 gennaio del 1971. Due super classici, A Man Needs a Maid, Heart of Gold, insieme in medley, fantastico. Viene da Barton-upon-Trent invece il buon Joe Jackson, sta nello Staffordshire, questo paese che non conoscevo, non conosco per meglio dire, e in Gran Bretagna naturalmente. Ha iniziato la carriera tantissimi anni fa, nel 1970, con alcune band di quelle giovanili, e poi si è messo in proprio con il primo album che si chiama Look Sharp, un album del 1979. A The BBC, che è il doppio dischetto che ci andremo ad ascoltare, comprende canzoni registrate in quattro diversi show fatti appunto per l'ente di Stato radiotelevisivo britannico. Quello che ci andiamo ad ascoltare, che ho scelto per voi, è stato registrato al Regal Theatre di Itchen in Gran Bretagna, altro posto che non conosco, del resto non sono tantissimi i posti che non conosco, il 22 gennaio del 1983. E non potevo scegliere altro che questo, che è una specie di inno che parla della calma, diciamo, slow song, infatti si chiama il pezzo, e lui è Joe Jackson, il tutto registrato nel 1983. This is all about it's actually a very romantic song. Yeah, thank you. All about being with the one you love. Yes, that special person. Late one night, winding down and just waiting for the right song to have a slow dance to. You remember when a DJ at the end of the evening used to play a slow song, you know? And I don't seem to do it anymore. So if you've been in this situation, you understand why I wrote this song, which is called a slow song. But I always get caught in the middle. it's late, I'm winding down. Am I the only one to want a storm in silent sound? Down and caress me. I feel you touch my hand and whisper in my ear. Ask me how just one more dance to leave heaven high. Veramente un brano bellissimo, dolcissimo, Slow Song, Slow Song sarebbe il titolo completo, una canzone lenta, infatti, malgrado qualche acuto del buon Joe Jackson, è veramente una canzone molto tranquilla, molto rilassante, molto molto bella. Si chiama A Slow Song ed è stata registrata al Regal Theater di Hitchin in Gran Bretagna il 22 gennaio del 1983, fra parte di un doppio dischetto che si chiama semplicemente Live at the BBC. They're led by a man who really came to the fore last year with a song called Is She Really Going Out With Him? An immense singer-songwriter, he really is. And, well, you'll see exactly what he's like, because here he is with his band. Torniamo negli Stati Uniti con un texano doc, infatti è nato da Amarillo, però è cresciuto a Lubbock, entrambi sono in Texas. È attivo dal 1971 con una band che si chiama Flatlanders e poi il suo primo album che si chiama come lui, vale a dire Joe Ely, è del 1977. Fra parentesi, per la cronaca, i Flatlanders si sono riformati nel 2002 e fra alti e bassi, diciamo fra anche scioglimenti, anzi stop, chiamiamoli così, dovuti alla carriera solista dei loro componenti, dei componenti della band, è tuttora attivo. Comunque Joe Ely ha fatto una serie di album live notevoli, questo è uno di quelli, è stato registrato in un locale storico di Austin, Texas, che è una città musicalmente tostissima, si chiama Live at Anton's, appunto Anton's è il locale che vi dicevo, il 22 gennaio del 1999. Ci andiamo ad ascoltare il brano che apre questo dischetto, è un singolo purtroppo, che è già tutto un programma, si chiama The Road Goes On Forever, la strada va avanti per sempre. How's everybody doing tonight? Sherry was a waitress at the only joint in town. She had a reputation as a girl who got around down Main Street after midnight. A brand new pack of cigs, a fresh one hanging from her lips, a beer between her legs. She'd ride down to the river and meet with all her friends. The road goes on forever and the party never ends. Sonny was a loner, older than the rest. He was going in the Navy, but he couldn't pass the test. So he hung around town, sold a little pot. The law got wind of Sonny. One day he got caught, and he was back in business when they set him free again. The road goes on forever and the party never ends. Now Sonny's playing eight ball at the joint where Sherry works, when some drunken out-of-towner put his hand up Sherry's skirt. Sonny took his pool cue, laid the drunk out on the floor, stuffed a dollar in her tip jar and walked on out the door. She's running right behind him, reaching for his hand. The road goes on forever and the party never ends. Hey, jump in Sonny's pickup. He jammed her down in gear. Sonny looked at Sherry, said, let's get on out of here. The stars were high above, the moon was in the east. The sun was setting on them when they reached Miami Beach. They got a motel by the water and a quart of Bombay gin. The road goes on forever and the party never ends. They soon ran out of money, but Sonny knew a man who knew some Cuban refugees who dealt in contraband. Sonny met the Cuban in a house just off the route, with a briefcase full of money and a pistol in his boot. The cards were on the table when the law came busting in. The road goes on forever, the party never ends. Cubans grabbed the goodies, Sonny grabbed the jack. He broke the bathroom window, climbed on out the back. Sherry drove the pickup through the alley on the side. where the lawman tackled Sonny and was reading him his rights. She steps out in the alley with a single shot of 410. The road goes on forever and the party never ends. They left the lawman lying there. They made their getaway. They got back to the motel just before the break of day. Sonny gave her all the money and he blew her a little kiss. If I ask you how this happened, say I forced you into this. She watched him as his taillights disappeared around the bend. The road goes on forever and the party never ends. It's Main Street after midnight, like it was before. 21 months later, at the local grocery store, Sherry buys a paper and a cold six-pack of beer. And the headlines on the paper say, Sonny's going to the chair. She drives back into Main Street in her new Mercedes Benz. The road goes on forever. Thank you. Band incredibile, quella dei Tubes, from San Francisco, California, come iniziavano i loro concerti, anzi iniziano tuttora i loro concerti, perché sono attivi dal 1972, anche in questo caso, come spesso succede, no, in questo caso sono due i membri originali rimasti: Roger Steen, il chitarrista, e Freddie Prinze, il batterista. Il cantante Freeway Bill, che è anche il frontman, quello che si traveste, fa tutti i travestimenti, fa delle cose veramente pazze, se n'è andato nel 1986 per poi tornare nel 1993 dopo il fallimento della sua carriera solista. Show assolutamente incredibili, con cambi di costume, costumi stranissimi, pezzi molto sexy anche. C'è un pezzo che si chiama Don't Touch Me There, che è veramente notevole. Qui e sono loro sono anche dei buon temponi. Infatti questo album si chiama Tubes World Tour 2001, lo dico all'italiana, ma in realtà è stato registrato nel 2000, per cui anche qui c'è qualche gag. E l'album è stato registrato al Galaxy Theater di Santa Ana in California il 22 gennaio appunto dell'anno 2000. Quello che ci siamo ascoltati è un super classico, non solo della loro carriera ma della musica in generale. Si chiama White Punks on Dope, anche se questa non è la versione migliore. La versione migliore è quella nel doppio album che si chiama What Do You Want From Live. In quella versione è uno dei miei top 10 in assoluto preferiti. Tubes, naturalmente, anno 2000. I'm telling you now. E dalla California dei Tubes andiamo più a nord, esattamente nello stato di New York. New Hartford è la città natale di Joe Bonamassa. Quante volte l'avete ascoltato da questa trasmissione, perché ha fatto decine veramente di album live. Lui ha cominciato la carriera giovanissimo, pensate che a 12 anni apriva i concerti per B.B. King, e la cosa direi che è assolutamente notevole. Come dicevo, ha fatto un sacco di album live, questo è uno di quelli. Si chiama Live at Carnegie Hall, An Acoustic Evening, e già la dice tutta il titolo. Contrariamente al solito Joe Bonamassa, che è un chitarrista elettrico molto molto bravo, in questo caso si dà all'acustico, e il tutto è stato registrato naturalmente a New York City, che è la sede della Carnegie Hall, teatro storico per quel che riguarda gli Stati Uniti ma non solo. Il tutto è registrato il 22 gennaio del 2016. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è una cover di un super classico della musica folk blues, diciamo che si barcamena fra i due generi a seconda di chi la suona, perché ha avuto un sacco di cover, e alcuni di voi ricorderanno quella di Ray Cooder e quella di Bruce Springsteen con la E Street Band, no, con la Seeger Session Band, scusate. E si chiama How Can a Poor Man Stand Such Times in Live, ed è secondo me adattissima purtroppo a questi tempi. Infatti, come può un uomo rimanere, vivere in questi tempi e sopravvivere, diciamo, in questi tempi. Si chiama Blind Alfred Reed il suo autore, e questa è l'esecuzione che ne diede Joe Bonamassa il 22 gennaio del 2016 in quel di New York City. Il tutto da questo album Live at the Carnegie Hall. Tell me, how can a poor man stand since time and a dandy shirt. Now we paint him box or more. Maybe get a shirt another man wore. So tell me, how can a poor man stand this time they live? comes around, his face so bright. He says in a little while, you'll be alright. And he gives me a humbug pill, dose of dope in a great big bill. Tell me, how can a poor man stand such times and live? Tell me, how can a poor man stand such times and live? Tell me, how can a poor man stand such times and live? Tell me, how can a poor man stand such times? Praticamente, come può un uomo sopravvivere di questi tempi? Era un classico di Blind Alfred Reed, si riferiva alla Great Depression del 1929, l'anno in cui fu scritta, ma ai nostri tempi calza perfettamente. Joe Bonamassa dal vivo alla Carnegie Hall, era il 22 gennaio del 1216, addirittura del 2016, a concludere questa Recorded Today, che è stato veramente notevole secondo me. Comunque, a concludere arriverà invece la novità che vi propongo, che vi ho proposto oramai il passato quest'oggi, nuovo album live dei National, si chiama Rome. Intanto però prima vi voglio ricordare che vi siete beccati un paio di ore di musica dal vivo, musica ufficiale chiaramente, dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko Live Club è la trasmissione che sta finendo, con appunto un po' di pompinamento da parte mia, con i National che ci andiamo ad ascoltare con un brano che si chiama Lemon World, fa parte di questo ottimo doppio album registrato a Roma il 3 giugno dello scorso anno. Vi ringrazio per l'ascolto, appuntamento a mercoledì prossimo, ciao a tutti da Nevio. Yeah.